dopo il lockdown io avevo fatto un'affermazione in cui dicevo che mi sembrava che fosse cambiato qualcosa, poi tutti mi hanno preso quasi per il culo perché abbiamo perso a rigori la Coppa Italia. In realtà invece l'evidenza, prima siamo cresciuti di condizione, che qualcosa a livello di convinzione, di capacità di giocare questo calcio sta cambiando veramente. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Non è finita. Parolo! Lazio in vantaggio 2-1. Ci sono state tantissime partite che le abbiamo vinte alla fine. Si vede che la storia continua. Io sinceramente non so neanche se i ragazzi sapevano il risultato dell'altra partita, e sono usciti per riscaldamento poi. Maurizio, la sapevano, sicuramente la sapevano. Sì, sicuramente lo sapevano, però senti, ti dovessi dire che a fine riscaldamento, quando sono rientrati e ho sentito qualche commento sul risultato della Lazio, ti direi una bugia. Noi bisogna pensare alle nostre prestazioni, facendosi condizionare il meno possibile. Douglas Costa. Bella. Cerca il tiro, bella, giro! Bella, subito. Douglas Costa! La squadra ha fatto bene, la palla viaggiava piuttosto veloce, siamo arrivati spesso alla conclusione. Su una buona prestazione di squadra sono venute fuori tre perle dei singoli. La squadra, dopo la delusione dell'Coppa Italia, si è ripresa subito molto bene, ma era solo una questione di crescita della condizione fisica, penso. You know what? E di tutto questo adesso parliamo, Pierluigi Pardo, però prima mi mandi il radio tweet. Ciao. Ma il radio tweet, ciao, lo faccio sulla Juve, lo faccio sulle famose tre perle di ieri sera. Mi sembra che, ne parlavo anche ieri, insomma, il talento e la classe di singoli possa essere una chiave importante per questa stagione. Ieri ne abbiamo avuto una prova. La Lazio per me continua a essere tosta, una corazzata vera e propria. Insomma, chi ha visto la partita col Torino lo sa che la vittoria della Lazio è sempre stata nell'aria, anche quando era sotto 1-0, la Juve... Mi sembra che stia mettendo in campo una crescita evidente dei giocatori più importanti, sì, rispetto, sì, anche semplicemente, sì, a un paio di settimane fa. Sì, poi, sì, vedremo. Beh. Però, insomma, intanto questo è un dato da registrare. Allora, abbiamo convocato Nano Galderisi. Ciao Nano. Ciao Carlo. Ciao. Ciao. Molto bene. C'è anche Roberto Perrone, collega, ciao, e grande, no, firma, no, e scrittore gourmet. Ciao. Senti, comincio da Nanu, perché le tue vecchie fiamme volano tutte insieme, forse mai successo, ad altezze varie, a Juventus, va bene. Ho ascoltato Pierre, logicamente ha parlato di individualità e sono ben chiare, ben delineate, perché quando là davanti fanno la differenza viene fuori quello che abbiamo visto in queste partite, però l'intensità e la qualità del gioco della Juventus, la qualità di passaggi, la velocità di passaggi, mette in condizione questi grandi giocatori di fare la differenza. Se ricordate bene, con il Napoli la lentezza e la difficoltà di far girare la palla in un certo modo non permetteva poi a Ronaldo di trovarsi uno contro uno, di Dybala nel uno contro uno. Adesso la Juventus sta crescendo nella convinzione, nella forza fisica, nella qualità della palla, nella velocità della palla, e allora Douglas Costa si trova con uno contro uno è devastante, sì. Pala ne salta tre e cambia tutto, è la Juventus che sta crescendo, e nella crescita della Juventus ci sono i singoli che sono i migliori al mondo. Sì, adesso aspettiamo qualche test un po' più provante. A me la Juventus con Lecce non era piaciuta, l'ho già detto, ieri sera secondo tempo sì invece, però bisogna fare il paio, Roberto, con il momento terribile del calcio di Genova tutta quanta, grande tristezza e parecchia paura a questo punto, a cominciare dal tuo Genova. Purtroppo Genova è stato danneggiato dalla chiusura, mi sembra evidente la spersonalizzazione, aveva chiuso in crescendo, diciamo, la prima parte della stagione prima della serrata, e ha ripreso, sembra una squadra sconosciuta, impaurita, cioè quella che era prima del lavoro di Nicola, ecco, è come se tutto quello che aveva imparato nell'ultimo periodo prima del maledetto Covid fosse stato dimenticato. Ieri non aveva cominciato male, perché la Juve, come sapete, si argina con una squadra stretta, con una squadra compatta, senza dare molto spazio ai suoi grandi solisti. Insomma, io giocava bene, però non trovava spazi. Poi purtroppo un paio di errori individuali hanno lasciato spazio a Dybala e Ronaldo, perché se Ronaldo, se gli lasci tirare da qualsiasi punto del campo, cioè, è Dybala pure, no, Ronaldo, Dybala pure, ma sai cosa colpisce, Pierluigi? Che la Juventus non, soprattutto non subisce mai gol. Poi le perline infilate dalle sue stelle sono praticamente scontate. Se è così, come la prendi? No, beh, sì, però attenzione, perché secondo me sono molto vicine. Insomma, sono molto vicine. La quantità di vittorie in rimonta e degli ultimi minuti della Lazio è sospetta, per non pensare a, come dicevo ieri, è una forza quasi esoterica di questa squadra, quindi io andrei molto cauto. Mi sembra un corpo a corpo, mi sembra un testa a testa. Sicuramente la crescita c'è. Mentre Nanu parlava, mi è venuto in mente il tuo sport preferito, che poi insomma somiglia anche abbastanza al mio, che è la pallacanestro. Sai che differenza c'è fra quando riesci a fare il tiro non forzato, perché è frutto di una circolazione fatta molto bene e quindi è tutto molto più lineare, e quando invece devi forzare un tiro perché di spazio ce n'è poco, ecco. Esatto, Piero, è proprio quella roba lì, è una questione di una frazione di secondo prima o dopo, di un metro o di 50 centimetri di spazio in più davanti all'avversario, che fa la differenza fra i tiri che abbiamo visto per esempio in Coppa Italia, penso al primo tempo della finale contro il Napoli, e che invece abbiamo visto ieri nel secondo tempo. Quindi è giusto, se vuoi, sottolineare la crescita dell'India. È sempre difficile capire fino a che punto è crescita del talento individuale e crescita di un meccanismo di squadra o della condizione, tutto l'insieme. Mister Galderisi, ha detto bene Pardo? Poi, sì, molto bene, ha detto grandi cose, secondo me, perché è proprio vero, il grande campione si esalta quando lo metti in condizione. Se deve tirare con cinque persone davanti è difficile che prenda la porta come la prendono, come l'ha presa ieri sera o altre volte. Ma in più devo dire che la Juventus prende pochi gol nell'ultimo periodo, perché ha alzato proprio il baricentro. Quello che vuole Sarri, quello che ha sempre voluto Sarri delle proprie squadre, è quello di chiudere ogni possibilità di ripartenza. La squadra, i due centrali della Juventus, De Ligt e ieri Bonucci, hanno giocato praticamente spesso e volentieri nella metà campo, perciò ogni palla persa è un'aggressione continua, e fare 70 metri è dura quando ti aggrediscono, perché devi avere una qualità e una velocità, certo, di pensiero, una condizione fisica difficile, ed è per questo che la Juventus, ed è per questo che le squadre di Sarri riescono col tempo piano piano a imporre la mentalità, un'identità di squadra e una sicurezza in quello che fanno. La Juventus gioca sempre negli ultimi 20 metri della squadra avversaria, che prende palla o perde palla o ha la palla, è sempre lì alla riconquista. Sì. Poi la differenza è quanto sei alto nel recuperare la palla, a me sembra, esatto. Nanno, perché mi sembra che quella sia veramente la differenza capitale. Poi riescono a salire i difensori, la squadra riesce a salire, però conta sempre come stai fisicamente, dove vai a prendergli quella palla, eccetera, eccetera, no? Sì, poi questo è un momento particolare, una squadra come il Genova, con l'attenzione che ci può mettere contro una grande Juventus, una Juventus importante in questo momento, deve fare 70 metri nella ripartenza, tu capirai che tutto il sacrificio che fanno per chiudere gli spazi a uno, all'altro, a destra, a sinistra, la palla viaggia più velocemente, quando riprendi palla e deve avere forza, gambe e 70 metri da fare, e non è semplice. Sì, Roberto, poi al capitolo personalità, vabbè, di che cosa stiamo parlando quanto alla Juventus, ad esempio tu hai scritto un libro anche con Gigi Buffon, che ha rinchiostrato il contratto insieme a Chiellini, quindi va bene Arthur, va bene Kulusevski, va bene gli ingressi dei nuovi, però la Juventus molto saggiamente, secondo me, non lascia andare quelli che tengono in mano lo spogliatoio. Questa è un po' la chiave di lettura dei trionfi juventini. La Juventus, a differenza di tante altre squadre appena sotto, insomma, vabbè, la Lazio quest'anno ha fatto un campionato straordinario, ma dico parlo delle rivali storiche, insomma, Inter, Milan, eccetera, ha questo questa cura del senso dell'appartenenza sì. viene coltivata in maniera particolare, insomma, e quindi queste presenze sono importanti, perché in questo calcio moderno, io non lo contesto per niente, però è una verità, si cambia tantissimo, cioè i giocatori vanno e vengono di tutte le nazioni, di tutte le bandiere, anche la Juve in questi anni, rispetto, se facciamo un calcolo sulla prima Juve di Conte, e questa, cioè la altra cosa, diciamo, l'internazionalizzazione è stata, adesso ci sono delle partite in cui c'è un italiano in campo, capisci? All'inizio dell'era diciamo di questo ciclo juventino, la maggioranza era fatta da italiani, quindi loro a questo ci stanno attenti, giustamente, perché il senso dell'appartenenza, la Juve, chiamatelo come volete, modo di essere, stile, non in senso di stile di uno che si mette la cravatta come faceva Agnelli l'orologio sul polsino sopra la camicia, non sto parlando di questo, non sto parlando di gentilezze o comportamenti, cioè sto parlando proprio del modus vivendi, dell'essere attaccati alla squadra, dell'essere la squadra, diciamo il motivo principale è sempre quello che c'hanno, è sempre quello bonipertiano, cioè alla fine l'educazione è sempre quello, cioè qui conta solo vincere, è quello che, per quello che tengono Chiellini, tengono Buffon, tengono tutti questi, perché quando arrivano i vari Arthur e Kulusevski ci sono questi che arrivano in spogliatoio e dicono guarda, perché, qui si fa così, sì, l'errore di altre squadre è proprio questo, cioè che a un certo punto non tengono più, capisci, il Maldini della situazione, no? O il Totti della situazione, o uno comunque identificativo di un modo di essere, ecco. Dicevi, Pier? Sì, che non è molto diverso, pensavo proprio al Milan di qualche anno fa, non è molto diverso, e questo ovviamente con le squadre vincenti è più facile, perché è più facile tenerli ovviamente in reciproca sintonia. Penso anche a quello che è stato il Manchester United di Ferguson per fare un salto in Inghilterra, cioè ha ragione Roberto, è assolutamente un fatto di appartenenza, di identità, è la capacità all'interno dello spogliatoio di comunicare alcuni valori e un certo modo di essere, di appartenere a un club senza nemmeno dover probabilmente urlare, è talmente chiaro l'esempio ed è talmente chiara la tradizione da questo punto di vista che i nuovi che arrivano si inseriscono, però ecco, nasce un po' parte sicuramente del DNA della filosofia della Juve, un po' è anche tipico di quelle situazioni di squadre vincenti che costruiscono uno gioco duro di giocatori di esperienza e riescono poi attraverso questi giocatori a esportare l'esempio a tutti gli altri. Lasciami usare Nanu come mister, qual è naturalmente come allenatore. La Lazio, Pier sottolineava giustamente, non ha perso il DNA della rimonta, e questo è importante. La condizione cresce, però va a Milano senza attaccanti, e questo fa tutta la differenza del mondo. Immobile, Caicedo squalificati, come si fa? Allora, io credo che la Lazio stia veramente facendo qualcosa di... Io ieri guardavo un po' tutto, perché c'erano un po' anche la Lega Pro, sì. Playoff e playout, insomma, ieri avevo tante di quelle partite da vedere che sinceramente ho perso un pochettino, ho perso un po' il finale della Lazio, però mi ha impressionato, perché ancora una volta ha dato dimostrazione di grande forza, e questa grande forza sicuramente è dovuta anche dalle capacità individuali, ma anche dalla mentalità che ha questa squadra, perciò io credo, e per esperienza questo sia da giocatore, non mi ricordo più, ma anche da allenatore, soprattutto da allenatore, dico che se manca uno, se l'identità è ben precisa e la forza è ben precisa, troviamo soluzioni diverse e i risultati saranno sempre gli stessi. Certo, sarebbe meglio avere Immobile e Caicedo, ma se non ce li hai, questa Lazio non credo si spaventerà nell'affrontare la prossima gara. Va a Milano col Milan con... Ho fatto veramente il massimo, ho fatto la partita... anche la Toro per certi versi, però poi alla fine la differenza tecnica e la differenza credo anche fisica a un certo punto, ieri faceva molto caldo a Torino, ci sono un paio di situazioni del Torino, uno un contropiede completamente non giocato, quasi per franchezza, sì. Non si disunisce mai, Pier. La Lazio, nonostante vada sempre in difficoltà, non si disunisce mai, ha sempre quella quella serenità mentale, adesso, serenità è una parola grossa nel calcio, ma ha quella consapevolezza di poter sempre recuperare la partita senza perdere mai la sua forza. Ma tanti giocatori, secondo me, ha tanti giocatori sottovalutati, perché per dirti Patrick è un giocatore che funziona, cioè, non so come dirti, che in quel posto lì funziona, è un buon giocatore, magari all'inizio della stagione poteva sembrare un cambio, un prospetto, ma sta facendo molto bene. Acerbi è il ministro della difesa in maniera assoluta, Milinkovic e Luis Alberto, basta che se ne accenda uno anche a intermittenza, costruiscono sempre cose importanti. Caicedo sappiamo che ha quella cattiveria e quella capacità di risolvere le situazioni, insomma, potremmo andare avanti a lungo. Ora, Lazio Milan è un passaggio secondo me importante, perché il Milan dà la sensazione di stare molto bene, è una squadra viva. Il Torino dà la sensazione invece di essere di lottare da toro. Ieri ha fatto una buona partita per quello che ha in questo momento a disposizione per avvicinare questa quota salvezza, che chiaramente a questo punto diventa l'obiettivo più importante. Quindi sono molto curioso, credo che nelle prossime tre giornate capiremo tante cose, perché c'è Lazio-Milan, poi c'è Milan-Juve, poi c'è Juve-Atalanta, quindi secondo me capiremo grosso modo come arriveremo a Juve-Lazio poi del 20-21. E diventa sempre importante la gestione dei giocatori, perché ragazzi, adesso voglio dire, noi la guardiamo da fuori, ci sembra anche tutto bello e forse qualche volta giudichiamo anche, ma ogni tre giorni giocare con queste temperature, con questi quattro mesi di stop, non è semplice, perciò ci possiamo aspettare di tutto e di più. Chi è più solido, chi ha più convinzione, chi ha quell'identità che diceva Pierre, e la convinzione di potercela fare. Il Torino dava l'impressione a un certo punto di speriamo bene, ecco, lo speriamo nel calcio non esiste, l'ho già detto qualche anno fa, speriamo non esiste, di essere convinto, la Lazio lo è. Allora ragazzi, vi chiedo un istante di pazienza, ma torniamo subito, altri due argomenti da approfondire. Uno è sui piedi sinistri di questo momento e l'altro è su due ex allenatori del Genoa. Buongiorno, ricordate Assar che con il Lecce e con il Genoa ha giocato, non ha giocato mica con chissà che causa. Ciao. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Sinceramente ancora non lo so, so per certo il rapporto di Andrea con la società, con la dirigenza, è un rapporto solido che prima o poi sfocerà in una collaborazione, però questo dell'allenatore dell'Under 23 per il prossimo anno ancora sinceramente non lo so. Beh, si ha altri problemi, normale, però è notizia quasi ufficiale che Andrea Pirlo andrà ad allenare la Juventus Under 23, che tra l'altro ha appena dato un donore a... Ne parlavamo l'altro giorno con l'amico Marchetti, che ha vinto contro la Ternana la Coppa Italia della Lega Pro. Volevo sottolineare un aspetto: Messi ieri ha fatto 700 gol in carriera, vabbè, di che cosa stiamo parlando? Lasciamo stare anche paragoni stucchevoli, però quei due sinistri argentini, l'altro è quello di Dybala, Roberto Perone, sono una delle cose più letterarie del calcio di oggi. Ma guarda, sono diciamo la diversità del piede sinistro, ecco. Sì. Quello di Messi mi sembra più forte fisicamente, cioè se posso usare questa espressione, cioè mi sembra che quando colpisce la palla sia più forte, Dybala sia più leggero, nel senso che colpisce in maniera diversa, però poi alla fine risulta sempre quello, la palla gonfia la rete, quindi cioè la differenza, il prodotto finale non cambia, però hanno questa grandissima diversità. Vabbè, come dicevi tu, di Messi ormai si è detto tutto, e perfino che veniva a giocare in Italia, una cosa fantastica. Il resto è quella che nella moda chiameremo tendenza Ronaldo, cioè è venuto Ronaldo, poi è tutto possibile. E quindi insomma sono due campioni straordinari. Io credo che Dybala abbia ancora molto, diciamo, da da dare, insomma, Messi pure, cioè, relativamente può fare ancora tantissimo, però diciamo il futuro è più di Dybala, quindi spero che per lui, che è un ragazzo anche gentile, uno insomma non aggressivo, no, insomma, ma poi è rimasto alla Juve un po' controvoglia della Juventus, sì, stessa, infatti, eccetera, posso, con grande dire, grande con un gioco di, con una piccola puntata che secondo me non va fatto neanche per scherzo questo paragone con Messi, perché no, ci siamo già caduti, ti ricordi? No, ma ci siamo del trampolone, siamo già cascati, Pierluigi. Sì, noi direttamente non tantissimo, però voglio dire, ci sta, è chiaramente una suggestione giornalistica, e quando c'è stato il famoso Juve-Barcellona 3-0, con quel Dybala lì e quel Messi lì, con la Juve che eliminò il Barça poi 0-0 al Camp Nou alla partita di ritorno, insomma, sembrava che le distanze si fossero molto avvicinate. In realtà è chiaro che è una suggestione, perché sono tutti e due forti, perché sono tutti e due talentuosi, perché sono tutti e due argentini, però ecco, insomma, diciamo, anche perché io penso che, e questa stagione lo dimostri, che Dybala in realtà proprio in questa stagione nella difficoltà, cioè nel partire di rincorsa, nel partire dalle retrovie, stia tirando fuori il meglio di sé. Verissimo, quindi verissimo. Non so dirti, non voglio fare il Freud o lo psicologo da quattro soldi, però forse aveva bisogno di provare questa ebbrezza, dell'essere un po' messo in discussione. Sappiamo che in estate si pensava addirittura di farlo partire, che era in difficoltà, si è sbloccato col gol all'Inter all'inizio ottobre, cioè insomma veramente partiva dietro come mai era successo negli ultimi anni, e ha tirato fuori forse la miglior stagione, quindi è la dimostrazione che forse doveva ritrovare delle motivazioni dentro di sé molto molto forti, e le ha trovate. Quanto quel modo di colpire, Nano, non porta bene. No. Quanto quel modo di colpire la palla, Nano. Direi che è un gesto tecnico unico, no? Assolutamente. Guarda, allora, Messi, secondo me, è avanti, ha percorso tanto di quella strada, ha incrementato la sua forza, la sua fiducia, la sua qualità, la sua meravigliosa idea di. Lui è un giocatore strepitoso, Dybala è sul percorso. Però ragazzi, quando un giocatore come Dybala, umilmente, come dice Pierre, si mette a disposizione e comincia a palleggiare e cercare il suo amico Cristiano Ronaldo, e si trovano un po' di più, io dico che diventa complicato. Quando calcia in porta ha una leggerezza forse qualitativa diversa da quella che ha Messi. Messi ha qualità e potenza, lui ha più estro e più precisione, però ragazzi, stiamo parlando di uno che deve farne di strada, e la strada è più che buona, perché quando uno riesce spavaldamente a affrontare uno, due, tre giocatori in area, e come sposta la palla, non dare neanche il tempo al portiere di arrivare a pensare dove può tuffarsi, e siamo già avanti. Abbastanza. Grazie, Nano. Grazie davvero. È un piacere. Ciao ragazzi, ciao Pier, Io volevo chiudere facendo deprimere ancora un po' di più Roberto Perrone, posso? Fantastico, vai. Sì, no, stavo notando, abbiamo parlato della letteratura dei piedi sinistri, poi ci sono le favole. L'Atalanta, ma anche il Verona, no? Eh beh, certo, non avevo mi sembra dubbi, di conoscerli, ma... quei due che sono in panchina. No, soprattutto no, il problema non è solo, cioè nei confronti del Verona non c'è solo quello che era in panchina, cioè c'è mezzo Genoa in campo, capisci? Quindi li conosciamo tutti benissimo, a cominciare da Lazovic, che è autore nell'ultima gara vincente di uno splendido gol, che devo dire che qualcuno l'aveva fatto anche nel Genoa. Juric è, come sapete, un gasperiniano di ferro, e secondo me era un allenatore che aveva bisogno di trovare l'alchimia giusta con la squadra, insomma, a un certo punto, di avere la squadra che piaceva a lui, non avere una panchina stratosferica, ma quella giusta. Verona sta facendo benissimo. Gasperini, vabbè, io sono un gasperiniano di stretto servizio, un mio amico, non ne parlerò mai male, neanche quando, e non succederà mai, perderà. Anzi, dell'Atalanta voglio dire, ho fatto un'intervista a Lippi, secondo me ha detto una cosa giusta, secondo me l'Atalanta la voglio vedere in Champions, che vedrete che farà delle cose stupefacenti. Sì, siamo convinti tutti noi. Pier, magari abbiamo dato un'idea preziosi, c'è materiale a sufficienza per chiedere royalties. allora, in Champions ve lo auguro di cuore, perché gioca un calcio incredibile. Sul discorso del Genoa, io credo che troppi cambi, troppo trading, troppa precipitazione in tanti momenti. Mi rendo conto che non sia facile, anche perché veramente è una piazza meravigliosa, enorme, che si aspetta. Sì. Il Genoa ha fatto il contrario di quello che ha fatto, dicevamo, della Juve. Cioè, a un certo punto è scomparso il fil rouge, quel minimo di senso di appartenenza che doveva comunque esistere, insomma, e che lui era riuscito per un po' di anni a tenere con alcuni giocatori, Marco Rossi, insomma, questi giocatori qui. Ci ha riprovato con Criscito, riportando Criscito, ma non è andata bene. Cioè, Genoa è un porto di mare, io ho alcuni amici, anche giovani giocatori, e uno che è passato dal Genoa, adesso in un'altra squadra, mi ha detto, il mio procuratore mi ha detto di andare al Genoa, io non ero molto convinto, ma ha detto, vabbè, stai lì, sei mesi, un anno, poi te ne vai. Cioè, voglio dire, capisci che questa cosa qui purtroppo non aiuta. Anche perché il vero paradosso è che Genoa in questi anni ha pescato grandi giocatori. Esatto. Cioè, veramente, grandi giocatori e grandi allenatori. Quindi, esatto. Il problema è questo. Lui c'è il tocco magico, lì facendo il pesto a Ibiza ha preso Pionte, capisce? Così c'è il pesto e ha visto la cassetta e ha detto prendiamo Pionte, cioè, questo è genio. Mai dire. Sottovalutare il potere del pesto, mi insegnate voi ragazzi. E anche del Prebujun. E anche del Prebujun, lo sai da dove viene Prebujun? No, da dove viene Prebujun? Prebujun nasce davanti alle mura di Gerusalemme durante la prima crociata, quando un crociato ligure preparò un'insalata di erbe spontanee per Boglione, per Goffredo di Boglione. Prebujun. E lì nacque il Prebujun. Ah, Prebujun. Vi aspetto a mangiare come parli, ragazzi. Grazie davvero. Sì. Grazie Roberto. Pier, ti lascio viaggiare verso Inter Brescia, che commenterai più tardi. Allora, noi invece ci fermiamo per la borsa, ma torniamo. E pensare che c'è ancora chi rimpiange Allegri alla Juve. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Mister Gente e Pier Pardo vi aspettano. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presento. Tutti convocati. Anche solo metterli nella stessa frase di Dybala e Messi già vuol dire che si sta insultando il gioco del calcio. All'età di Dybala, Messi cosa aveva già fatto? Vogliamo solo ricordarlo, perché di Dybala ogni anno si parla in un periodo dei 2-3 mesi di un'esplosione, fenomeno, palloni d'oro di qui e di là, e poi pum, sparisce di nuovo ormai già da qualche anno. Quindi ridimensioniamo un po' tutto, ha azzeccato 3 partite e finiamola lì, dai. Bisogna sempre vedere chi vuole vedere il bicchiere mezzo pieno o chi vuole vedere il bicchiere mezzo vuoto. In questo periodo penso che tutti quanti abbiano interesse a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto e a creare problemi all'Inter. Quanto a Dybala, se volete cascarci nel trappolone del parallelo con Messi, fatelo da soli, noi non l'abbiamo certamente fatto. E quanto al bicchiere, invece, io voglio riempirlo fino all'orlo, perché voglio fare gli auguri con un giorno di ritardo al mio amico Mario Boni. Ciao Marione. Ciao Carletto. Ciao, tanti auguri da parte di tutti. Compleanno ieri, è ancora nettamente in età da campionato. Da quintetto. Ci mancherebbe altro. Com'è il bicchiere dell'Inter? Com'è il bicchiere di Conte? Ma ho visto l'ultima partita da mettersi le mani nei capelli. E anche Conte ogni tanto ha, insomma, qualche... Ci sta, ecco, una formazione non proprio ideale. Però io voglio ritornare al gol sbagliato di Gagliardini, sai, quando uno sbaglia un gol così, poi l'allenatore ha poco da dire, poco da fare. Quindi questo è il succo. Mi stupisce la cosa, Carlo, è la difesa non era così brutta prima della sosta, è incredibile, ecco. Sì, prende un sacco di gol, Mario, però dai, l'aria è migliore rispetto ai tempi del tuo amico Condombiano. Beh, secondo Bia è stata una delle più grandi pippe che si è girato con la maglia nerazzurra, no? Cioè, 40 milioni c'ero io uguale. Ascolta, invece basket italiano, sì, sono curioso di sentire come leggi questo momento, perché da una parte abbiamo il mercato faraonico di Milano, è tornato da Tom, ah, e siamo, sì, tutti contenti. Bologna comunque sta facendo una grande squadra, Varese ha, sì, ha preso Scola per, sì, l'ultimo ballo. Repesa, che avrai letto, arriva alla, certo, certo, alla presentazione a Pesaro sullo yacht come un imperatore. Sì. Dall'altro lato invece abbiamo società che non sono ancora sicure se ce la faranno o no a pagare le bollette e iscriversi ai campionati, e l'idea di una Serie A a 14 squadre. Sono poche, però forse è l'unica soluzione. Che dici, Mario? Esattamente quello che tu dici, è l'unica soluzione. Io credo che ci voglia un senso di responsabilità quando si affronta un campionato, ma questo non vale solo per la Serie A professionistica, vale anche per i dilettanti. Quindi io vedo di buon occhio quando c'è un riposizionamento o la consapevolezza di non poter garantire la categoria. Quindi bene Cremona e Roma, che hanno grossi dubbi, perché se si iscrivono ci vuole, se giocano a basket ci vuole, certo, continuità, ci vuole solidità, insomma un insieme di cose, perché poi il movimento ne risente. Sì, tu sei anche voce dei giocatori. Com'è la situazione ai piani di sotto invece rispetto alla Serie A? Ma io credo che il movimento dilettanti, quando esprime quasi 100 squadre, non sia proprio in salute. Sì. Vedo sempre di buon occhio il fatto che ci siano molti scambi, no? Chi è in C-Gold va, domanda per andare in Serie B, e chi in B va in Serie A, però sono troppe squadre. Io da un po' che sostengo e spingo perché ci sia una grande riforma della pallacanestro con una sola Lega 2 e magari due Serie B professionistiche, perché non dimentichiamoci, Carlo, che i giocatori che fanno pallacanestro sono lavoratori e in questo momento non hanno niente, un vuoto normativo incredibile. Sì, d'altra parte quella dei campionati a iscrizione potrebbe anche non essere al momento una cattiva idea, cioè chi ha i soldi, sì, chi ce la fa, sì, si iscrive a un campionato più competitivo, chi non ce la fa, bravo, mantiene in vita la struttura ripartendo da un'altra parte, no? Bravo, si deve autoretrocedere, anche perché non te lo dice il medico di giocare in quella categoria se non ce la fai. Capisco che è prestigioso per chiunque nel proprio posto in cui è avere una categoria importante, certo, però ci sono anche, certo, delle componenti importanti, certo, per garantire ai lavoratori, a tutti quanti, che sia buona pallacanestro. Certo. Mario, invece, come sarà la stagione che verrà? Riesci a capirlo? Perché insomma, ci eravamo lasciati con un basket italiano che, con il duello Bologna-Milano, con Venezia, sì, che si, sì, inserisce, sì, e vince, stava tornando anche ad appassionare, ad avere molto appeal, ad avere nuovi grandi personaggi. Ora è vero, torna da Tome, è vero che la Virtus non ha intenzione di mollare un centimetro, ma come sarà il basket l'anno prossimo? Ma io mi auguro, allora, prima di tutto sono certo che la stagione comincerà in tempo, quindi sento già che fine luglio, primi di agosto, perché ci sarà la Supercoppa che comincerà a fine agosto, primi di settembre, quindi è importante che si ricominci a fare pallacanestro, certo, che bisogna parlarne. Poi sai, se tu mi domandi, Milano è una squadra imbarazzante, no? Però ogni anno lo diciamo, e ogni anno c'è una situazione di sorpresa. Voglio vedere Sassari, perché mi piace questo nuovo trend dove i giocatori italiani sono molto protagonisti, perché basta farli giocare. Diciamo che Polonara ha vinto lo scudetto in Spagna con, sì, un passaggio, ieri, meraviglioso all'ultimo secondo, Spissu molto bene, Stefano Gentile, cioè voglio dire, grande consapevolezza, e sono fiducioso. Milano, mi dovessi chiedere adesso, vince non perdendo una partita, però il basket, come il calcio, è sempre le grandi sorprese. Eh sì. Fabio Parisi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao, sei tifoso di basket? Assolutamente sì. Sì? Milano? Olimpia tutta la vita. Olimpia, come la vedi? La vedo, sentivo adesso l'ultima parte, la vedo come una corazzata, però quando tu costruisci una squadra che è costruita solo ed esclusivamente per vincere, dove il secondo posto in campionato sarebbe un fallimento totale, e forse quest'anno anche il non raggiungimento addirittura delle finali di Eurolega sarebbe, sì, un fallimento, le responsabilità, le pressioni diventano e come non dico insostenibili, ma difficili da gestire. È chiaro poi che la società c'è, è forte, è solida, l'allenatore non si discute, perché è forse uno degli altri più preparati, più vincenti anche della storia del basket italiano, europeo e anche americano, perché non dimentichiamoci che Ettore Messina porta l'anello come pochi, e quindi è così. E poi ripeto, cioè, vedo comunque una Virtus ben strutturata, con un gruppo forte, una città forte che la spinge, e speriamo che questo duopolio possa portare il basket italiano a ritornare a quello che era, cioè, che era una volta. Ha un tremendo bisogno di questo duopolio, cioè, di grandi sfide. Non dimentichiamoci di Venezia e anche la Fortitudo, mi piace, insomma, con Sacchetti, no, un gioco spumeggiante, divertente, sarà un bel campionato, io credo. Senti Marione, vuoi prima di salutarti, poi mi tengo Fabio Parisi, vuoi sapere, certo, da uno dei principi del foro dei procuratori, che degli agenti FIFA, chi prende l'Inter? Esatto, sai, che sono sempre qui pronto ad ascoltare, a beverarmi. Vabbè, te lo faccio raccontare subito dopo il traffico. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Voglio vedere che questo Milan non è più Ibra dipendente. Come sa se ci fa un aggiornamento sulle condizioni fisiche di Ibra? Perché psicologicamente credo che ci sia. È un leone, è spinto sempre da grandissima motivazione, da grandissima determinazione. Ieri ha fatto sicuramente un buonissimo allenamento con i ritmi giusti, come i suoi compagni che non sono scesi in campo con la Roma. Se mi dà l'ok potrebbe essere convocabile. Questo era Pioli, vigilia partita con la Lazio. Adesso ho un po' di cose da farmi spiegare da Fabio Parisi. La prima, 30 giugno è passato senza grandi scossoni contrattuali, Fabio. Chi doveva restare è rimasto al suo posto, più o meno. Poi ci sono delle curiose situazioni come quelle di Smalling e di Sanchez, che sono dello United, che dice vabbè, ve li lasciamo ma solo per il campionato, per la Coppa no, perché potreste essere i nostri avversari. Un momento molto strano. Sì, è un momento strano, un momento che andava con intelligenza e buon senso. L'intelligenza e buon senso ha portato a mettere a posto tutte le situazioni. Ci sarebbero stati dei disastri per qualche squadra. Ci sono queste prese di posizione forse dello United, così un pochino integraliste, però il discorso è che non è che sono prestiti e basta, certo. Sono prestiti dove lo United paga anche più della metà degli stipendi dei giocatori, e quindi sì, diciamo. Che è una richiesta comprensibile. Certo, buon senso comunque ha avuto la meglio, però sto notando che Juventus, Arthur dopo Kulusevski, l'Inter che ha presentato ieri a Hakimi, ci hanno raccontato per molto tempo che sarebbe stato un mercato dell'austerity. Alla faccia dell'austerity, si muovono grandi giocatori. Beh, la parte della Juventus è una mossa, l'ho già detto, una mossa straordinaria della dirigenza, che ha sostituito, ha fatto una plusvalenza di bilancio reale, ha preso un giocatore buonissimo, ha fatto partire un giocatore che secondo me aveva già dato tutto quello che poteva dare alla Juventus, sì. Poi non sono abbastanza convinto che Pjanic ci farà bene anche a Barcellona, però in questo momento la Juventus, cioè nel calcio italiano, del calcio italiano, forse aveva raggiunto il massimo che poteva fare, e ha fatto un'operazione intelligente. Ha sistemato anche il bilancio. L'Inter ha fatto un'operazione esclusivamente tecnica e non economico-finanziaria, perché probabilmente non ne aveva bisogno, e ha preso, secondo me, l'esterno destro più forte che si poteva prendere sul mercato, senza ombra di dubbio, forse è uno dei più forti in assoluto, però di quelli che si poteva prendere sul mercato, secondo me ha preso il migliore. Ha un prezzo tutto sommato ragionevole, no? Il prezzo, poi ti ripeto, lo sa il mercato, quando oggi squadre di prima fascia a livello europeo si muovono, devono mettere in preventivo che le operazioni sono tra acquisizione, stipendi, arresto, viaggi sui 100 milioni di euro, di ammortamento per la durata del contratto. Quindi devi fare queste cose. L'importante è che le società che fanno queste operazioni abbiano le garanzie economiche. Chiaro, che possano essere coperte, sostenibili. E questo credo che non sia assolutamente il problema dell'Inter, ma da quindi, questo punto di vista. Ma quindi nel complesso si andrà avanti così con grandi nomi che si spostano quest'estate? Questo non lo so, sembrerebbe, può darsi che succeda di tutto. Non dimentichiamoci che viviamo in un momento in cui c'è una grossissima crisi e dei grossissimi problemi, però il calcio italiano secondo me è potenzialmente sottostimato rispetto a quelli che sono ormai gli standard europei, cioè non è che si può la Premier League e i diritti televisivi e tutto il resto non si può spremere di più. Il calcio italiano secondo me può essere valorizzato, lo dimostra il fatto che ci sono comunque grossissimi gruppi internazionali, fra quali gruppi che investono nello sport, faccio pensare al gruppo che ha preso anche la Formula 1, altre cose che sono interessate a investire nel calcio italiano. Poi è chiaro che per attirare questi gruppi ci vogliono delle situazioni dove le regole siano ben precise, dove ci siano dei parametri e dei vincoli sostenibili, e ci siano anche prospettive di struttura, ci siano prospettive di tutto. Poi se uno deve dire questo e l'altro, poi come dico sempre io, ci deve essere una persona che comanda e prende le decisioni per tutti, ovviamente nell'ottica di prendere decisioni per tutto il movimento. Invece si continua ad andare avanti che ognuno cerca di prendere le decisioni perché vuole avvantaggiare la sua proprietà, il suo giardinetto e le sue cose, allora diventa soluzione di sistema, mio caro, ci sono quelle che ci vogliono. È una soluzione di sistema, bisogna mettere delle regole, dei paletti, una governance forte, e il calcio italiano può il fatto che comunque calciatori importanti vengano a giocare in Italia, tornino a giocare in Italia, e questo è un bel segnale, Fabio. Questo è un bel segnale. Senti, come immagini, si è tornato tra l'altro a parlare del matrimonio Milan Arnaud smentito mille volte. Poi anche Belinazzo ci aveva spiegato che Arnaud non è interessato al Milan così com'è, quel gruppo non è interessato al Milan così com'è, ma se ci fosse già sdoganata e sbloccata la pratica stadio, qualcosa di più ampio, complesso, un discorso più ampio, più complesso, potrebbe essere interessato. Non so se ci sono delle novità, ma non è il momento nella sede per capirlo. Come immagini invece il Milan del futuro? Il Milan del futuro non lo so, bisogna vedere quel che succede. Lo immagino comunque un Milan voglioso di ritornare a costruire, non a vivere alla giornata. Bisogna costruire, non dimentichiamoci che comunque il Milan di Berlusconi è stato costruito su uno zoccolo forte di giocatori italiani, a cui sono stati messi dei fuoriclasse stranieri e c'erano anche i fuoriclasse italiani. Ovviamente ci vuole programmazione, ci vuole abilità, e questo è la soluzione migliore. Purtroppo non è semplicissimo perché la concorrenza è diventata altissima, prendere giocatori buoni diventa difficile, così come diventa buoni farli crescere. Sì, poi ci vuole un po' di chiarezza, anche perché abbiamo sentito prima Pioli. Ci vuole chiarezza, ci vuole queste cose, poi come sempre i risultati sono quelli che determinano a volte anche le scelte. Certo. Bisogna far chiarezza. Adesso non so se arriverà Rangnick o non arriverà, chi ci sarà al comando, chi farà la parte tecnica. Da un certo punto di vista cambieranno il management. Importante capire chi prende decisioni e seguire questa pallina del flipper che rimbalza dal punto di vista decisionale. Se sai che Gazzidis ha scelto Rangnick avrà pieni poteri, almeno nel bene o nel male sai banalmente e brutalmente a chi dare la colpa. Dimmi un'ultima cosa in 30 secondi, la Roma per così com'è messa sarà ancora saccheggiata sul mercato? Purtroppo penso di sì, anche se faranno probabilmente di tutto per cercare di tenere quello che garantirà il futuro, tipo su tutti Zaniolo e Pellegrini. Ed è quello, tutti gli altri secondo me diventano sostituibili, nel senso che si possono trovare delle cose. Sono ovviamente sostituibili anche Zaniolo e Pellegrini, però tenerli sarebbe un segnale forte nei confronti di una piazza, un'inversione di tendenza, Fabio, perché una piazza ambiziosa certo, come quella di Roma, con certo, dei tifosi incredibili che probabilmente sono stati illusi un po' troppo negli ultimi anni. Ha sempre giocato a gioco dell'oca, cioè torna, tira il dado, torna al via. La Roma è un po' questa al momento. Grazie Fabio, ti abbraccio. Grazie a presto. Grazie a voi, alla prossima. Ciao, ciao Fabio Parisi. Io ringrazio Valeria Bernardi in regia insieme a Gianmarco Ferronato, Anita Panizza oggi in assistenza, Claudia Schiattoni in redazione. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.